della sepoltura del Piovano Orlotto. Innanzi a sua morte, il Piovano fece due sepolcri, uno nella chiesa della sua pieve e uno nell'ospedale dei preti di Firenze. E come uomo di somma carità, come era stato liberalissimo in vita di sua roba con ciascuna persona aveva avuta a sua notizia, così volle essere alla sua morte. Lui medesimo fece lo epitaffio nella sepoltura della pieve. Ne sono incerto perché, dopo che l'ebbe fatta, mai io non vi fui. E nello sepolcro di Firenze fece queste sillabe in lingua volgare. Questa sepoltura ha fatto fare il Piovano Orlotto per sé e per tutte quelle persone le quali vi volessino drento entrare. Da motti e facezie del Piovano Orlotto.